Siamo eccezionali. A ting, ting, ting, ting. Vai ed eventuali. Sette giorni che il buon Dio creò gli umani, pur con impegno gli riuscirono alquanto strani. In principio essi sembravano tutti uguali, ma col tempo furono vari ed eventuali. Per valori o per semi, come con le carte, quadri, picche, cuori, fiori. Allora alla fine si divisero quasi tutti, come funghi si formarono tanti gruppi. 10.000 lingue ne capisci solo una, 7.000 modi che a pensarci fa paura, una sola origine per tutti i nostri guai, che siamo tutti uguali non l'abbiamo capito mai. E poi parliamo tante lingue da sembrare una Babele, pensiamo con troppe teste litigare non conviene, una sola origine per tutta la tribù, una volta che è capito di sicuro non ci sbaglieremo più. Un nuovo sistema con le razze sparirà ogni eventuale problema. Se non basta a risolvere la situazione, useremo una nuova guerra di religione per denari, per colori. Cosa cambia se quando siamo nati siamo bianchi, rossi, gialli e neri, tutti in fila per sentirsi un po' più speciali, ma anche insieme siamo esseri eccezionali. 10.000 lingue ne capisci solo una, 7.000 modi che a pensarci fa paura, una sola origine per tutti i nostri guai, che siamo tutti uguali non l'abbiamo capito mai. E poi parliamo tante lingue da sembrare una Babele, pensiamo con troppe teste litigare non conviene, una sola origine per tutta la tribù, una volta che è capito di sicuro non ci sbaglieremo più.